Thank you. strumento di cui oggi difficilmente si può fare a meno. Accresce le risorse ed estende il campo di azione dell'uomo, soprattutto permettendogli di collegarsi in tempo reale con ogni parte del mondo. Però, se non viene utilizzato correttamente, può a lungo andare provocare alcuni disturbi. Perciò è importante imparare ad utilizzarlo nel modo giusto. Stiamo vedendo tutto ciò che non va e che un operatore non deve fare in un posto di lavoro con videoterminale. Non vi è alcun rispetto per l'ergonomia. Perché non cambiamo il sedile, tanto per cominciare? Molte cose però ancora non vanno. Lo schermo, per esempio, è troppo vicino. Così va meglio, ma ci sono dei riflessi e la luce della finestra negli occhi. La posizione del tavolo ora va bene e non ci sono più riflessi. Ma la tastiera così non va. Sistemiamola meglio, creando uno spazio per l'appoggio dei polsi. Regoliamo bene contrasto e luminosità del monitor. Ed ora, prima di iniziare il lavoro, ci sembra indispensabile fare un po' d'ordine. Ecco, così è proprio tutto a posto. Osservando ora il nostro posto di lavoro, vediamo che uno degli elementi fondamentali è il sedile. Lavorare seduti è comodo, ma un lavoro sedentario non è certo l'ideale per la colonna vertebrale, che ha bisogno di movimento per rimanere efficiente. Ecco perché il sedile giusto ed una corretta posizione assumono grande importanza. Sappiamo che la colonna vertebrale è l'asse portante del nostro corpo ed è sostenuta da muscoli e legamenti. I dischi intervertebrali consentono il movimento della colonna, sopportano il peso del corpo e funzionano da ammortizzatori. Se restiamo a lungo in una posizione scorretta, il carico sui dischi ne farà diminuire l'elasticità, mentre la compressione delle terminazioni nervose ci causerà dolore. Invece, tenendo la schiena eretta, possiamo ridurre notevolmente gli effetti negativi dell'attività sedentaria. Il sedile deve avere una base a ruote del tipo a 5 razze, antiribaltamento, e deve potersi regolare in altezza. Altri requisiti riguardano lo schienale, con inclinazione regolabile, e dinamico per seguire i movimenti dell'operatore, con regolazione dell'altezza e con un efficace supporto lombare. È opportuno infine che il piano del sedile abbia la giusta imbottitura e un profilo smussato per non ostacolare la circolazione sanguigna. Anche le gambe contribuiscono a mantenere una corretta posizione. E a questo proposito, coscia e gamba devono formare un angolo di circa 90 gradi. Una buona regola è quella di muovere le gambe e alzarsi di frequente e, perché no, fare qualche semplice esercizio di rilassamento. Stando seduti, poggiamo comodamente i piedi sul pavimento e, se necessario, ricorriamo a dei poggiapiedi. Vediamo ora quali sono le caratteristiche di una corretta postazione con il videoterminale. Innanzitutto, il tavolo deve essere stabile, con una superficie di colore chiaro, non lucida e quindi poco riflettente. Le dimensioni devono essere adeguate al tipo di lavoro da svolgere. La profondità deve consentire, soprattutto, di mantenerci alla giusta distanza dallo schermo per salvaguardare gli occhi. Da alcuni schermi più grandi può essere talvolta opportuno tenersi ad una distanza maggiore. Il piano di lavoro deve essere alla giusta altezza. Lo spazio sottostante deve consentire un agevole alloggio delle gambe, anche semidistese, mentre il posto di lavoro nell'insieme deve permettere libertà di movimento all'operatore. Per non essere abbagliati dalla luce diurna, non dobbiamo trovarci con le finestre di fronte oppure alle spalle. La disposizione corretta della postazione è di 90 gradi rispetto alla superficie delle finestre. La luce diurna ha forti oscillazioni, per cui, dovendo provvedere a schermarla, la soluzione migliore è quella di impiegare tende regolabili. Corretto orientamento del posto di lavoro diventa problematico nelle stanze d'angolo con finestre su due lati. Uno di questi deve perciò venire oscurato. Bisogna evitare anche i fastidiosi riflessi sullo schermo dovuti alla luce artificiale. A questo scopo, i punti luce non dovrebbero mai trovarsi direttamente sopra il piano di lavoro, ma disposti lateralmente. Sulla nostra scrivania vediamo che la tastiera è mobile, indipendente dal monitor, e che la sua inclinazione si può regolare. Per un lavoro più confortevole dobbiamo riservare il giusto spazio sia alla tastiera che al mouse. Per quest'ultimo sarà meglio utilizzare un tappetino piuttosto sottile. Esistono vari tipi di mouse e i modelli più recenti sono progettati per ridurre l'affaticamento dei nostri polsi. Teniamo la tastiera sul bordo del tavolo, perché così sottoponiamo i polsi ad una fatica supplementare. Dobbiamo considerare che, lavorando in posizioni non corrette, i tendini e i muscoli delle mani, dei polsi, degli avambracci e delle spalle vengono sollecitati eccessivamente. Le conseguenze sono indolenzimenti, formicolie alle dita e possibili infiammazioni ai tendini. In una posizione corretta, il braccio e l'avambraccio devono formare un angolo di circa 90 gradi. Questo è condizionato naturalmente ad un buon appoggio della schiena. Anche quando si lavora la tastiera è opportuno fare qualche pausa ed eseguire degli esercizi salutari per i polsi. Vediamo ora qual è il modo corretto di porsi davanti ad un monitor. Innanzitutto bisogna valutare la distanza dallo schermo, che deve variare fra i 50 e i 70 cm. Evitate di lavorare troppo lontano o troppo vicino, e i vostri occhi ve ne saranno grati. La direzione dello sguardo deve passare appena al di sopra dello schermo. È sufficiente così a passare gli occhi senza muovere troppo il capo, evitando di affaticare i muscoli della nuca. In alcuni lavori, come nella copiatura di documenti, è molto utile l'impiego delle ginocchia. In questi casi, per risparmiare agli occhi il continuo cambiamento della messa a fuoco, è conveniente che lo schermo e il leggio siano equidistanti da chi lavora. Thank you.

Ta fi bo on fums bo ta za fums bo ta za u fums bo ta za u per gif qui dedens dor li mulf tulf tu til hu ka rinske pepe en kermu zien zien trns kermu rakata pebe Rakata baby, rumpf, hulf, doo. Fuck the rhythm. Fuck the rhythm under your bosom. I don't want to move too fast. I can't resist you. Sexy ass, just spread for me. Don't want to come on too strong, but I. Spread for me. Don't want to come on too strong. Come on, come on, come on. But I'll play you all day long. Come on, come on, just spread. Come on, spread. Spread for me. I can't wait to get you home.

ceremony, hustle. Ring ceremony, hustle. Hear ceremony, hustle. Polymers for servitors. It's Herman Hustle. It's Herman Hustle. It's Herman Hustle. Hustle.